Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E 6 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo il giorno dopo i dati che già ieri abbiamo commentato a caldo, a sorpresa crescita del PIL francese, soprattutto a sorpresa quello tedesco. Si divide il mondo degli opinionisti, degli economisti, tra chi invita alla prudenza e chi dice no, questo è il segnale che siamo alla svolta, che c'è un inizio di riprese, quindi la crisi nella sua parte più virulenta è alle nostre spalle. Si divide soprattutto su quello che sarà il ruolo degli Stati Uniti. Oggi diversi articoli su vari quotidiani italiani ricordano come il grande assente a questo tentativo, questo invito alla ripresa economica, sia il consumatore americano. I dati infatti che sono usciti ieri, tra i dati usciti ieri ve n'è uno forse meno commentato di altri, meno sottolineato di altri, che riguardava le vendite al dettaglio in America. Ebbene, sono calate contrariamente a attese in crescita, -0,1 contro un +0,8%, e questo sta a dire che il consumatore americano ancora non sta partecipando a questo tentativo di unirsi alla ripresa economica, ammesso che di questo si stia parlando. Ci si interroga poi su quali altre economie potranno prendere il posto di quella americana quanto consumi. Lo fa oggi Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, e soprattutto ci si chiede se e per quanto tempo potranno le banche centrali americane, ma anche quella europea, tenere i tassi così bassi. Ci si aspetta che la banca centrale australiana, molto legata come economia all'Australia e alla Cina per via delle materie prime che possiede, sarà la prima delle banche centrali occidentali, dei paesi già ricchi, a alzare i tassi di interesse. Parleremo anche delle materie prime, che assieme a un recupero di alcune borse, è di oggi la notizia che sia Tokyo che Taiwan che Sydney che Hong Kong e altre borse asiatiche hanno chiuso sui massimi. Pensate che da inizio anno Shanghai, la borsa cinese, ha guadagnato il 68%, molto più di quanto non abbiano fatto da inizio anno le borse europee. Penso infatti non solo all'Italia, +12% da inizio del 2009, ma anche all'America, +7%, Londra, +7%. Ecco, a Shanghai siamo a un +68%, massimi dell'anno, anzi massimi dallo scorso settembre, quindi dalla data che viene considerata l'inizio, diciamo, ufficiale di questa crisi, ai massimi dello scorso settembre tutte le borse asiatiche. Contemporaneamente al rialzo delle borse vi è anche un incremento di tutti i prezzi delle materie prime. Ce ne siamo già occupati la settimana scorsa per quello che riguardava lo zucchero, ma insomma oggi è il caso dell'alluminio, del caffè. Insomma, tutto il mondo delle cosiddette commodity è in fermento. Anche qui la domanda più forte arriva dall'Asia, o comunque dai cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, India e Cina. La Russia in questo caso è il più debole dei quattro paesi del BRIC. 349-238-6666 per i vostri sms. Importante capire dove si dirigeranno i consumi futuri anche per le nostre imprese, perché è chiaro che se il consumatore avrà sempre più gli occhi a mandorla, o comunque sarà sempre più indiano, brasiliano e cinese, i beni richiesti saranno di altro genere rispetto a quelli classici del consumatore poco risparmiatore americano. Parleremo poi della borsa. Oggi giornata di correzione, -1,3% il FTSE MIB, -0,80 Parigi, -1,7 Francoforte, che è tra le peggiori, l'1% lo perde Londra, questo anche per via di un'America che adesso sta cedendo sul Dow Jones, l'1,4%, l'euro è tornato a 1,4242, il petrolio, lo dico subito, è poco mosso, siamo a $70,3 al barile. Ultimo appuntamento di questa puntata, immagino, anche di trasferimenti ferragostani, per chi sarà in macchina perché ancora non è in vacanza, beh, ci occuperemo delle multe, dando anche un occhio di riguardo agli automobilisti. L'avevamo già segnalato, molte le richieste che ci sono arrivate di chiarire che cosa significhi il condono sulle multe inserito nel decreto anticrisi da parte del governo, e avremo modo anche di dare un'informazione quanto mai di servizio agli automobilisti che purtroppo spesso sono anche multati. 349-238-6666, rapidamente con le notizie in breve. Dicevamo delle borse asiatiche, oggi arriva un dato anche dall'America che ha finalmente visto un incremento nella produzione industriale, più 0,5% della produzione industriale americana a luglio, è il primo incremento da 9 mesi a questa parte, e però che ci sia un'America che forse dà qualche segnale di ripresa sulla produzione industriale ma non ancora sui consumi. Io ricordo che il PIL americano, un po' anche come quello italiano, ma insomma il PIL americano è per 2/3 dipendente dai consumi delle famiglie. Il 70% del PIL si chiama consumi delle famiglie, da noi è il 60% del PIL. Dicevo che i consumi non stiano ripartendo in America, lo dimostra anche un'altra notizia. Abercrombie & Fitch, che è un marchio d'abbigliamento americano molto conosciuto anche in Italia, c'è chi dice insomma il nuovo abbigliamento da fighetto, ma insomma vedo che ridono in regia. Ma Abercrombie & Fitch, una notizia molto seria, ha archiviato il periodo di aprile e giugno con un rosso, quindi con una perdita di 26,7 milioni di dollari. E pensate che un anno prima, nel secondo trimestre del 2008, aveva registrato un utile di 78 milioni di dollari, quindi siamo a una differenza di quasi 100 milioni di dollari. La catena d'abbigliamento, che è molto forte nella categoria dei teenager, ha visto le vendite scendere del 23%, nonostante una politica molto aggressiva di riduzione dei prezzi. Come previsto, l'inflazione americana è poi andata a zero nel mese di luglio. Praticamente i prezzi al consumo sono rimasti piatti, al netto del settore alimentare e energetico il tasso di inflazione è sceso un più 0,1% mese su mese, su base annua, cioè rispetto all'anno prima siamo a meno 2,1 rispetto a un anno prima. L'andamento dei prezzi, pensate che a giugno era stato di un meno 1,4%, quindi siamo in una deflazione netta negli Stati Uniti. E anche in Europa si è registrato un calo record dell'inflazione. Il dato non è nuovo, è l'aggregato di tutti i dati sulle diverse inflazioni dei vari paesi dell'area euro. Oggi Eurostat li ha messi assieme. Il tasso annuo di inflazione è stato meno 0,7%, quindi a luglio rispetto a un anno prima i prezzi al consumo complessivamente nell'area euro sono calati dello 0,7%, non era mai successo da quando esiste l'euro stesso, e ricordiamo che un anno fa il tasso di inflazione era il 4%, quindi la differenza fa un 4,7% rispetto a un anno prima. Comunque dal 4% di luglio 2008 al meno 0,7 di luglio 2009. E la Spagna non si aggrega al gruppo dei paesi che hanno visto crescere il PIL per la prima volta dopo oltre un anno. Infatti la Spagna oggi ha diffuso un dato meno 1% nel secondo trimestre dell'anno, a questo punto il calo su base annua del 4%, quindi Germania, Francia e Portogallo hanno segnato un più 0,3%, Italia, Gran Bretagna e a questo punto anche Spagna hanno un segno meno anche nel secondo trimestre. Boccata di ossigeno per gli italiani grazie ai rimborsi fiscali, sono arrivati infatti in questi giorni sotto gli ombrelloni circa 600 milioni di euro di rimborsi fiscali inviati oltre 900.000 contribuenti inviati dall'Agenzia delle Entrate. Il 20% è andato in Lombardia e non a caso in Milano, la provincia al top della classifica, 71.000 rimborsi per un totale di 60 milioni di euro. Il bottino più magro chiaramente è arrivato nelle regioni più piccole, Valle d'Aosta e Molise. E poi un dato della CGA di Mestre, secondo cui l'indebitamento è più forte nelle famiglie, l'indebitamento medio delle famiglie italiane è comunque cresciuto dell'81% da quando è stato introdotto l'euro. E la provincia più sofferente è Lodi, seguono Roma e Milano. Lodi con 20.960 euro, Roma con 20.900 e Milano con 20.800. La differenza tra nord e sud è, secondo la CGA di Mestre, dovuta soprattutto al fatto che mentre al nord l'indebitamento è causato dall'accendere mutui per l'acquisto della casa e da finanziamenti di medio e lungo termine, al sud spesso si ricorre all'indebitamento anche per i consumi di breve termine, per i consumi mensili e per l'acquisto di beni non durevoli, di beni normali da consumo. Resta un indebitamento più alto delle famiglie del nord, come ha spiegato il segretario della CGA di Mestre Giuseppe Bortolussi al microfono della nostra Roberta Pellegatta. Sempre le province più ricche sono quelle più indebitate perché riescono ad avere credito proprio perché sono più ricche. Chi ha la possibilità spende, ma sappiamo anche che ha investito in immobile per ristrutturare le abitazioni. Quello che preoccupa è che ci sono invece province del sud e lì la questione è che soprattutto è indebitamento da crisi, indebitamento per tirare avanti, per sposare una figlia, per far studiare un figlio. Un'ultima notizia che è l'elaborazione dei dati già diffusi dall'Agenzia delle Entrate, la classifica ANCOT sulla dichiarazione al fisco per il 2008 vede la Lombardia guidare la classifica dei redditi più ricchi, 22.500 euro lordi in media. Il Lazio segue con 21.000 euro lordi dichiarati in media e poi l'Emilia Romagna con 20.500 euro. Fanalini di coda Basilicata e Calabria, e tra l'altro il reddito medio complessivo viene confermato per ciascun contribuente a 18.890 euro lordi. E allora riprendiamo anche le notizie che sono arrivate dall'America e dall'Asia, perché le due cose si tengono, visto che stiamo ragionando non solo dei tempi di questa ripresa, di questa stabilizzazione della crisi, poi uscita dalla crisi, ma anche dei luoghi. E mi sembra che su questo ci siano meno dubbi. I luoghi saranno luoghi asiatici, lo dimostrano le borse, lo dimostra anche l'andamento del prezzo delle materie prime. La domanda, ripeto, se la pone oggi Francesco Giavazzi sulle colonne del Corriere della Sera. Va bene, diciamo che ci sia pure un accenno di ripresa, che il dato francese-tedesco sia risultato sorprendente, questo 0,3% del PIL, quando ancora non si erano esplicate le politiche di aiuto, penso agli incentivi auto e quant'altro, però all'appello mancano ancora i consumatori americani e finché non arriveranno anche loro a partecipare a questo così festeggiamento per la fine della parte più virulenta della ripresa, non si potrà parlare di ripresa vera e propria. Allora ci spostiamo. Ieri abbiamo avuto ospite il presidente dell'Istat da un lato e il presidente del CEPS di Bruxelles dall'altro, quindi fronte europeo. Oggi ci spostiamo sul fronte americano per capire intanto se condivide questa idea che con ieri c'è stato il primo segnale di una fine della crisi e poi per capire anche cosa succederà ai consumatori americani con Luigi Zingales, che è docente di imprese e finanza all'Università di Chicago, editorialista del Sole 24 Ore e anche membro, se ben ricordo, del team di economisti che dovrebbero aiutare, dare una mano a Wall Street, al rilancio di Wall Street. Professor Zingales, buonasera. Professore? Abbiamo un problema di collegamento. Mi sente? Io la sento benissimo. Eccoci, scusi, abbiamo avuto un leggero ritardo nell'audio. Buonasera, dicevo, professor Zingales. Buonasera. È d'accordo intanto con i titoli della maggior parte dei quotidiani che il dato tedesco e francese di ieri è il segnale di una fine della crisi, di una stabilizzazione di un inizio della ripresa? Beh, direi che ci sono tanti segnali che indicano che, se non altro, la fase più acuta della crisi è dietro di noi e ci sono segnali chiari di stabilizzazione. Parlare di ripresa forse è un po' presto, però chiaramente la situazione sta migliorando, diciamo, in tutto il mondo. In tutto il mondo, anche se poi abbiamo visto che Gran Bretagna, Italia e Spagna hanno ancora il segno meno. Sappiamo che il deficit britannico volerà quest'anno una cifra astronomica, intorno al 14% del PIL, ma soprattutto le giro il tema aperto oggi da Francesco Giavazzi, e cioè se il consumatore americano non arriva a tornare a consumare come prima, la ripresa non arriverà in senso compiuto. In America invece è aumentato il tasso di risparmio, che era praticamente a zero negli ultimi anni, è arrivato a un 4-6% del reddito disponibile. I dati di Walmart, ma anche di Abercrombie & Fitch di oggi, dimostrano che insomma l'americano è molto più prudente, non sta consumando come ci si potrebbe attendere. Vorrei un suo commento anche su questo. Sono d'accordissimo, cioè quello che stupisce è che in sostanza l'espansione passata è stata drogata da un eccesso di consumi americani. Adesso quello che sta facendo il risparmiatore americano non è di risparmiare eccessivamente, è semplicemente di ritornare a dei livelli di risparmio, diciamo, fisiologici. E questo secondo me è un fenomeno che è qui per stare, non è un fenomeno temporaneo, non è semplicemente una ritirata del consumatore in un momento di panico, è un riaggiustamento di lungo periodo che ovviamente riduce la domanda mondiale e la riduce in particolar modo per l'Europa, cioè il grosso perdente secondo me di questa crisi purtroppo sarà l'Europa, perché l'Asia si sta riprendendo molto bene, gli Stati Uniti si stanno riprendendo in parte spostando la domanda dei consumatori su domanda pubblica, e l'Europa manca di un forte traino della domanda. Quindi paradossalmente l'Europa, che non ha generato questa crisi, ci ha partecipato non in parte determinante. Certo, c'erano banche europee coinvolte nella finanza creativa, nei prodotti tossici e quant'altro, però insomma la crisi è nata, si è sviluppata, è stata in qualche modo anche congegnata a Wall Street, però lei dice l'Europa ne pagherà le conseguenze più grosse. Se ho ben capito, perché un consumatore americano che consumerà meno, e ricordo i consumi americani sono il 70% del PIL statunitense, consumerà meno prodotti made in Europe? Certamente, ma quello che bisogna capire è che esisteva uno squilibrio di fondo preesistente alla crisi. La crisi finanziaria non ha fatto altro che precipitare questo squilibrio e invece di farlo aggiustare lentamente l'ha fatto aggiustare in maniera drammatica, e questo è quello che abbiamo visto. Però lo squilibrio, come dicevo, preesisteva, ed è uno squilibrio in cui i consumatori americani compravano troppi prodotti dal resto del mondo, in particolar modo compravano le macchine tedesche, i prodotti di lusso italiani, le televisioni giapponesi o cinesi, e oggi hanno riaggiustato il proprio bilancio familiare e quindi consumeranno meno di questi prodotti, e quindi l'Europa deve riaggiustarsi e esportare nei paesi emergenti. Ovviamente il tipo di prodotto, il mix di prodotti è diverso. E qui veniamo a un aspetto ancora più delicato per noi, cioè se immaginiamo che la quota di consumo che non arriverà più dall'America, perché gli americani risparmieranno di più, potrà essere soddisfatta, rimpiazzata da una quota di consumo maggiore che arriverà dall'India, dal Brasile e soprattutto dalla Cina, ragioniamo di numeri aggregati e magari il ragionamento può filare. Quando poi si va a vedere però la quantità, la sostanza, che cosa vanno a consumare, lei ci sta dicendo che cambierà il tipo di esportazione, perché immagino che un'economia emergente come la Cina o l'India non vada a chiedere magliette griffate o prodotti così di gamma alta, andrà a chiedere generi alimentari, macchinari, prodotti in materie prime. Prima di tutto anche in India e in Cina si sta formando una classe, diciamo, più agiata, che può domandare prodotti di lusso, però sicuramente c'è necessità di un riaggiustamento. È questo che, quando dicevo prima che lo squilibrio di fondo preesisteva, in una situazione normale si sarebbe aggiustato lentamente attraverso la variabile prezzo, cioè il dollaro sarebbe deprezzato e quindi lentamente sarebbe stato un aggiustamento verso un mix di esportazioni diverse. Oggi questo aggiustamento avviene in tempi e modi traumatici e quindi lo soffriamo di più, però era un problema che era già nelle cose ben prima della crisi finanziaria. Ho ancora due domande per lei, due domande americane, chiamiamole così, senza K, mi raccomando. Però, prima domanda, sembra che Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, il numero uno della Banca Centrale Americana, sia diventato un nuovo mito. Vorrei capire se è così e se veramente a questo punto si può dire che l'attività, gli interventi della banca, della Federal Reserve sono stati corretti, con magari qualche sbavatura, ma corretti, cioè abbattere il costo del denaro, iniettare sul mercato centinaia di miliardi di dollari per salvare prima le banche, poi le grandi compagnie che gestiscono i mutui immobiliari e comunque tutti quelli operativi nel credito al consumo. Prima di tutto io sto attento alla parola mito, ricordo a tutti che Greenspan era un mito prima di cadere in disgrazia. Per quello che sì. E quindi è molto pericoloso usare la parola mito. Io tra gli economisti rimango uno dei più scettici su Bernanke, sicuramente ha fatto delle cose giuste, sicuramente però ha delle grosse responsabilità su come la crisi è nata nel lungo periodo, cioè lui è stato uno dei fautori dei bassi tassi di interesse sotto Greenspan, lui era un governatore, non era il chairman, ma è uno dei governatori della Fed quando Greenspan ha fatto quelle scelte, le ha supportate, ha supportato la teoria che non si combattono contro le bolle speculative, si pulisce dopo e abbiamo visto cosa costa pulire dopo, è stato una delle persone che ha creato il panico andando al congresso dicendo che il mondo finiva domani se non venivano approvati 700 miliardi di dollari, quindi ha una serie di responsabilità negative, ha sicuramente aiutato in questa fase con una politica espansiva molto aggressiva. Il giudizio finale però rimarrà tra due o tre anni se riesce a uscire da questo senza scatenare una forte inflazione negli Stati Uniti. Io ho i miei dubbi, quindi prima di elevarlo a livello di mito vorrei almeno avere un po' di storia per dimostrarlo. Sì, ricordo appunto che l'accusa che lei citava è da parte della Federal Reserve di aver tenuto il denaro troppo basso come costo, questi sono i tassi di interesse, quindi aver facilitato negli anni scorsi un continuo ricorso ai prestiti da parte degli americani. Quando il denaro costa poco si spende anche più facilmente, viene da sé, e quindi aver tenuto i tassi troppo bassi ha generato la bolla immobiliare, ma non solo quella immobiliare, il denaro veniva prestato con troppa facilità perché costava troppo poco e quindi costava troppo poco anche prestarlo. Ultima domanda che ho per lei riguarda invece le banche di Wall Street, le banche diciamo che hanno coltivato, incubato e poi seminato il germe della crisi e quindi la tossicità dei prodotti, per usare un linguaggio un po' così da Armageddon. Abbiamo visto che sono tornati gli utili, Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, sono tornati però anche i bonus miliardari distribuiti ai dirigenti e anche alcune operazioni che ieri commentavamo di così al limite tra l'insider trading nell'utilizzare algoritmi sofisticatissimi per speculare con un'operazione al mezzo secondo o la dark pool. Insomma, stanno tornando anche i vecchi vizi? Sicuramente in questo in parte Bernanke sta aiutando, perché di nuovo i bassi tassi di interesse favoriscono le posizioni speculative. Bernanke sta dando denaro gratuitamente alle banche con una garanzia di salvarle qualsiasi cosa facciano, è una licenza a speculare e quindi loro non fanno altro che prendere vantaggio di questa offerta. Sì, però prendono vantaggio perché magari qualcuno non li ferma, cioè anche vedere che gruppi come Goldman Sachs, che hanno ricevuto soldi dal contribuente pubblico americano, hanno già accantonato, messo da parte 6 miliardi e 600 milioni di dollari per i prossimi bonus, così ci lascia un po' perplessi, perché bonus su cosa? Sì, ma lei ha ragione, ma io dico sempre se un leone sbrana non è colpa del leone, è colpa di chi non lo mette in gabbia. La gente di Wall Street è pagata per fare soldi e per prendere tutte le opportunità che ha per fare soldi, quindi se noi vogliamo metterli in gabbia dobbiamo avere delle regole serie, finché non li mettiamo delle regole loro faranno quello che sono pagati per fare. Sì, basta che se il leone sbrana non si dia colpa alla gazzella a questo punto che si trovava lì, ecco, no, perché gira e rigira, fra un po' no, la colpa. No, la colpa a chi non l'ha messo in gabbia. Sì, sì, no, siamo l'autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza. E va benissimo, però basta per non dire, ma noi facciamo così perché la gente voleva questo, che è colpa della gazzella che si è trovata lì in quel momento ad essere sbranata. Vabbè, l'ultima domanda vera, cioè veramente l'ultima, riguarda l'exit strategy, come la chiamano quelli che sanno l'inglese e capiscono di economia, cioè quando le banche centrali, secondo lei, inizieranno a capire che è il momento di tirare la corda, di far dare un giro di vite e quindi tornare ad alzare i tassi di interesse per evitare che un eccesso di generosità nei confronti delle banche, dei consumatori, di tutte le istituzioni finanziarie si tramuti in una nuova bolla, cioè che torniamo a viaggiare col denaro che costa nulla e che si usa in maniera un po' spensierata. Secondo me negli Stati Uniti una exit strategy seria non è possibile, nel senso che ormai appunto Bernanke è diventato un idolo popolare, è stato ormai già reappointed alla sua posizione facendo una campagna sulla stampa, sulle televisioni, chiedendo il supporto popolare, e quindi non ha un mandato per una politica restrittiva quando la situazione diventa surriscaldata. Quindi secondo me la exit strategy negli Stati Uniti non riuscirà. In Europa? In Europa vedo più possibilità, cioè la Banca Centrale Europea è effettivamente numero uno più indipendente, anche grazie a, diciamo, questa impasto tra stati, però è indipendente e ha un mandato univoco. Ricordiamoci che la Banca Centrale Europea ha un unico mandato di stabilità dei prezzi, mentre la Fed ha un mandato congiunto di stabilità dei prezzi e di piena occupazione, quindi ha una giustificazione anche per non uscire al momento giusto. Quindi paradossalmente la Banca Centrale Europea, che soffre dei veti incrociati in primo luogo tra Francia e Germania, la Francia la vorrebbe più sensibile alla politica, la Germania invece vede come baluardo l'indipendenza dell'autorità centrale europea, della Banca Centrale Europea, paradossalmente la rende forse anche più libera di agire senza vincoli politici sui tassi di interesse. Certamente. Grazie e buon Ferragosto, anche se in America praticamente sarà una domenica come un'altra, a Luigi Zingales, in collegamento con noi da Chicago, dove insegna economia di impresa e finanza. E in questo scenario in cui all'appello continuano a mancare i consumatori americani, si vede un po' più di crescita in Germania grazie all'export verso la Cina e verso l'Asia, in Francia grazie al fatto che in Francia sì che il welfare lo sanno fare e le famiglie non hanno tutti questi problemi con i consumi, soprattutto le famiglie con figli, le politiche per la famiglia in Francia sono serie e non ideologiche. Dicevo, in questo scenario un dato però sicuramente positivo è rappresentato dalle borse asiatiche e, per chi ci ha investito, dal rialzo dei prezzi delle materie prime, zucchero per motivi veri, alluminio, rame, caffè per motivi meno veri, o meglio più speculativi. Sorride Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, che è nostra ospite oggi. Buonasera Sissi. Buonasera. minuti prima di arrivare alla borsa e ai mercati, quelli quotidiani, diciamo meno 1,26% FTSE MIB, parliamo oggi in chiusura, parliamo di altri mercati, perché se io dicessi bushel e poi sacchi e poi balle, non direi balle ma direi utilizzare le unità di misura delle principali commodities al mondo, oltre alla più conosciuta, ma che commodity neanche tanto è, ossia il petrolio. Eh sì, perché il bushel, che sarebbe come una specie di sacco, è l'unità di misura per tutto quello che riguarda i cereali, poi cambia il peso di questo bushel. Le balle, se non ricordo male, sono quelle che si usano per il cotone, e tutte le materie prime che servono per i tessuti, e invece i sacchi si usano per misurare il prezzo e l'andamento del prezzo del caffè. Poi c'è l'oncia per l'oro, il barile per il petrolio. Sì, sì, bell'uomo. È impressionante vedere quanto ha fatto l'Industrial Metal Index, cioè un paniere che Goldman Sachs utilizza per mettere assieme tutti i metalli di uso industriale, più 60%. Il nickel in una sola seduta ha fatto il 9% in più. Tra l'altro l'alluminio, che doveva essere zavorrato dalla crisi, dal fatto che si producesse di meno, bah, nella giornata di ieri ha fatto un più 7% a $2,035 a tonnellata, un più 50% l'alluminio in 4 mesi. E poi c'è il succo d'arancia, quello mitico del film Una poltrona per due, no? Con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, il succo d'arancia che ha i massimi da un anno a questa parte, il caffè pure, lo zucchero anche qui a record, più 76% negli ultimi 8 mesi. A parte lo zucchero, che sconta una notizia vera, cioè le rivolte dei contadini indiani, per tutti gli altri, tutte le altre commodities, il motivo qual è? Ma il motivo, parlavamo poco fa di grande quantità di liquidità nel sistema finanziario, nell'economia reale, anche lì probabilmente il motivo maggiore è che c'è tanta liquidità che cerca di dirigersi verso gli asset che garantiscono un maggiore rendimento agli investitori. Anche qui c'è grande dibattito politico, frenare gli speculatori sui mercati dell'energia, sui mercati dei prodotti agricoli, è un tema all'ordine del giorno sia negli Stati Uniti sia in Europa. È vero quello che diceva il professor Zingales, che appunto i fondi fanno il loro mestiere, ed è vero che le materie prime offrono un'ottima protezione dai rischi dell'inflazione, per esempio. Beh sì, anche perché le commodity per loro definizione hanno anche oscillazioni molto speculative, ma insomma è difficile che il prezzo di un bushel o di un sacco, di un chilo di riso vada completamente a zero. Ci scrivono gli ascoltatori che anche il 14 d'agosto sono ben attenti, mi fa piacere, il bushel uguale a 27 kg, il sacco uguale a 60 chilogrammi, il bushel è 27 kg, non sempre a seconda della materia prima che contiene prima. Se ci provocate diventiamo cattivi, però almeno l'ascoltatore ammette che non sa quanto vale la balla, e io aggiungerei 142 libre. No, io direi dipende dalla balla, ci sono quelle pesanti e quelle veniali. Vabbè, andiamo avanti invece sulle materie prime in maniera molto seria, perché alcuni temono che vi sia un effetto bolla sulle materie prime in alcuni generi. Tu, a giudicare anche, visto che ne scrivi tutti i giorni su Sole 24 Ore, dalle ultime quotazioni, dov'è che si sta eventualmente collocando o si starebbe collocando una bolla speculativa? Ma sai, di bolla delle materie prime periodicamente si riparla sempre, molto meno scandalo suscita invece il crollo delle materie prime, che pure c'è stato a dicembre, alla fine dell'anno scorso. Io non so se parlerei di bolla, certamente i prezzi, soprattutto di alcune materie prime, sono andati un po' oltre quello che sarebbe giustificato pensare in base al quadro dei fondamentali, cioè della domanda e dell'offerta. Come tutti i mercati, è anche vero che insomma, come si dice, anticipano, e adesso tutti i mercati stanno anticipando forse un po' troppo, a parere mio, ma confortato anche dal parere di molti economisti, stanno forse anticipando un po' troppo una ripresa che vedono come imminente, vedono come vicina, così vicina che allora è meglio portarsi avanti col lavoro, no? Compriamo sì, sull'attesa, ecco, di una domanda che si riprende. In tutto questo l'unica commodity, ripeto, ho un po' di difficoltà a chiamare come tale, che è meno risentito di rialzi record è il petrolio, perché è vero che siamo a $70 il barile, però è anche vero che un anno fa in questo periodo ne valeva 140, e voglio dire, la crisi, la caduta della domanda era già incipiente, era prevista da molti, era già in atto la bolla immobiliare in America. Però in dicembre ne valeva poco più di 30, non dimentichiamocelo. Anche nel caso del petrolio, 70-75, come è arrivato il Brent a quotare pochi giorni fa, è visto come un prezzo eccessivo, perché di petrolio nel mondo ce n'è una marea, la domanda è bassissima, non è ripartita assolutamente, soprattutto negli Stati Uniti, che ne consumano un quarto. Va bene, vedremo, perché è interessante, vediamo se sarà anche un fuoco fatuo estivo. Ogni tanto sappiamo che d'estate anche i gestori devono diversificare i portafogli in assenza di temi o in assenza totale di temi nel mercato borsistico e di borsa. Adesso parliamo, grazie intanto e buon lavoro e buon Ferragosto a Sissi Bellomo. Borsa che conclude la settimana in maniera negativa, ma una settimana tutto sommato in cui c'è stato chi ha parlato di rialzo di mini rally estivo, meno 1,26% il FTSE MIB, meno 0,80 Parigi, meno 1,7 Francoforte, meno 1% Londra, l'America perde adesso 1,5% e quindi ha trascinato nella parte finale anche le borse europee. Come sempre il commento di borsa lo facciamo con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Realizzi immaginabili, anche se questa mattina le borse asiatiche hanno toccato nuovi record, come ricordavamo. Oggi molto male in Europa e devo dire anche in Italia il settore auto. Sì, diciamo che borse poco orientate nella prima fase della giornata sono state orientate in negativo da Wall Street, ma soprattutto dai dati peggiori delle attese statunitensi sulla produzione industriale e sulla fiducia dei consumatori. E ne ha risentito in particolare il settore auto, anche se per motivi diversi. Certamente per quanto riguarda Fiat, i realizzi dopo la bella performance di ieri, più 5,3% di ieri, sono, diciamo, una motivazione principale. Per quanto riguarda gli altri titoli dell'auto, va ricordato il crollo di Volkswagen, l'operazione Porsche, per quanto annunciata, diciamo, ha oggi assunto alcuni dettagli che hanno tenuto lontano gli operatori dal titolo, insomma, l'aumento di capitale, l'importo necessario per l'operazione, i tempi per la realizzazione, insomma, un po' di elementi che hanno allontanato gli operatori dal titolo. Se l'auto è andata molto male, in negativa la giornata per le banche, meglio invece un settore in recupero come quello del lusso e nella prima parte della seduta anche il settore editoriale. Allora, questo sul settore auto, e tu ricordavi giustamente anche l'aumento di capitale di Volkswagen, 4 miliardi di euro. Bene, contrariamente all'analisi che abbiamo appena fatto, ma insomma il settore lusso in Europa da noi cresce tantissimo, Bulgari +9,90%. Sì, a innescare tutto il settore sono stati i conti della svizzera Swatch, di Swatch Group, che non solo ha indicato utili nel primo semestre superiori a quelle che erano le previsioni, a 301 milioni di franchi, ma soprattutto ha dato delle buone indicazioni per quanto riguarda gli ordini e le prospettive della seconda parte dell'anno. Ne hanno risentito bene la stessa Swatch, come anche Richemont a Zurigo, e i titoli del lusso francese come Louis Vuitton, Hermès, e in Italia Bulgari ha guadagnato quasi il 10%, e per gran parte la seduta è andata molto bene anche Luxottica, che poi ha frenato nelle ultime ore di contrattazione. Poi ci sono notizie che hanno mosso i titoli. L'Automatica, per esempio, +3,55%, lì c'è un annuncio, se ho ben capito, della De Agostini, no? Che riguarda le opzioni sul titolo. Sì, certamente l'indicazione è arrivata ieri in serata. L'azionista di controllo dell'Automatica, appunto De Agostini, che detiene quasi il 60% della società, ha annunciato la vendita di queste opzioni put appunto sul titolo L'Automatica, una vendita di 1,2 milioni di opzioni put. Certamente è un'indicazione, quando si vanno a vendere le put, è un'indicazione che insomma si crede in una ripresa del titolo, in quanto la put è sostanzialmente un contratto in cui diciamo così si impegna a vendere un titolo che si pensa vada a scendere. Se si vende la put è perché si pensa che il titolo recuperi, e questo ha dato fiato oggi all'automatica, che ha chiuso a più 3,5%, ma è arrivata a correre anche ben oltre quota 16 euro, come non le succedeva da parecchi mesi. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, Andrea Fontana, dicevamo di management capitali, quindi Carlo De Benedetti è la società, infatti, che un fondo, diciamo, salva imprese, un fondo di partecipazione alle imprese, è oggetto di due offerte chiaramente in contrapposizione: quella della famiglia Segre con la società Mimose e quella del Tamburi con la TIP, due offerte con prezzi diversi, ma soprattutto il motivo per cui oggi il titolo è arrivato a 17 centesimi di euro per azione, qual è? Più 28,4%. Beh, è stato questo annuncio dell'acquisto da parte di Carlo De Benedetti, che è il principale azionista di riferimento di management capitali attraverso una società che si chiama Romed. Carlo De Benedetti appunto ha reso noto di aver acquistato un ulteriore 2% del capitale a prezzi che sono decisamente superiori a quelli delle due OPA lanciate, come tu ricordavi, una da famiglia Segre e l'altra da Tamburi, cioè intorno a 0,15 euro per azione, mentre le due OPA vanno sostanzialmente una a 0,11 e l'altra a 0,12. Il mercato certamente si interroga sul motivo di questa operazione, insomma non si pensa, visto che De Benedetti ha già dichiarato, diciamo così, la sua volontà di uscita in management capitali, non si pensa a un rilancio di De Benedetti, o certamente, come pensa il mercato, l'imprenditore pensa che la società sia poco valorizzata e diciamo così ha deciso di investire nuovamente su un titolo comunque in crescita, sicuramente De Benedetti è pronto a diciamo a dirla sua, almeno dal punto di vista finanziario, nel momento in cui la battaglia tra i due contendenti per il controllo di management capitali andrà avanti, e quindi, avendo acquisito un'ulteriore quota, poi deciderà eventualmente a quale dei due dare i soldi. Bisognerà venire a patti con lui a maggior ragione. Grazie ad Andrea Fontana, buon fine settimana e buon Ferragosto a tutti i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso, per la prima volta in questo programma, una situazione molto imbarazzante per il conduttore, una classica situazione da conflitto di interesse. Parliamo infatti di multe. Le multe, il condono alle multe. Sono in imbarazzo, chiaramente, essendo uno degli italiani, non penso l'unico, che ha ricevuto qualche multa in vita sua. Allora, il governo, nella manovra, mini manovra estiva di fine luglio, ha previsto anche una sanatoria sulle vecchie multe non pagate. Tutte le multe fino al 31 dicembre 2004 i comuni potranno chiedere la sanzione minima per l'infrazione con una maggiorazione del 4%. Siccome si calcola che se tutti i comuni facessero ricorso a questo mini condono potrebbero rientrare nelle casse comunali 1,4 miliardi di euro. Pensate che solo a Roma sono 300 milioni le somme condonabili, cioè che arriverebbero dal condono, e 240 milioni a Napoli. Il tema ha una sua valenza anche forte dal punto di vista economica. In realtà nasce dal fatto che in media una multa ogni tre si perde per strada nei nostri comuni o non arriva a pagamento. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Hai migliaia di italiani in macchina che pendono dalle tue labbra e anche il conduttore. Allora, per cui insomma cerchiamo di tenerlo presente. Prima domanda, abbiamo capito bene, quando i comuni decideranno, il condono riguarda, cioè si paga la multa originaria senza tutti gli interessi accessori, per cui gli interessi ma anche le spese di spedizione del bollettino, tutto, cioè si va alla multa originaria. Esattamente così, quando i comuni decideranno di dar vita al condono, si pagherà per le multe interessate la sanzione minima, cioè quella che si pagherebbe nel caso in cui si fosse pagato il giorno dopo, diciamo così, La multa, quindi, senza tutte le maggiorazioni che scattano dai 60 giorni dopo e poi si affastellano negli anni, visto che qui parliamo di multe molto vecchie, e in più, diciamo, per il disturbo, per sanare tutta la situazione, un 4% a titolo di una tantum. Tutto dipenderà se il comune che ha fatto la multa deciderà di aderire o meno a questo condono. I multati romani sono già sicuri che lo faranno, perché l'iniziativa nasce dall'assessore al bilancio del comune di Roma, che è anche parlamentare. I multati napoletani possono essere quasi certi che il loro comune seguirà la stessa strada, perché nei giorni immediatamente successivi, insomma, la giunta del municipio si è espresso molto favorevolmente rispetto a questa ipotesi. Meno speranze per i multati milanesi, perché invece a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, la cosa è piaciuta decisamente meno. E qui il conduttore ha avuto un mancamento. Però detto questo, tu ci hai chiarito molto bene che sta poi al singolo comune. Il tema è così serio che abbiamo ricevuto in queste settimane decine di mail, sms, perché non chiarite, ecco perché ne parliamo al di là delle battute. Deciderà ogni singolo comune, e i comuni che riescono meno a riscuotere, tu citavi il caso di Roma e Napoli, sono già certi che lo applicheranno sto mini condono. Invece, oltre a Milano, dove la riscossione negli ultimi tre anni, cioè dal 2005-2007, è stata del 99%, pensate che a Modena, Bergamo, Venezia la riscossione è del 100%, a Verona, Genova al 98%, perché quei comuni hanno poco bisogno di condonare, visto che riescono a riscuotere quasi tutto. A Torino ci si scende al 76%, Firenze al 67%, a Roma non si va oltre il 49%, a Palermo al 46%, a Napoli non si riesce a riscuotere due multe su tre. Complimenti. Poi c'è Caserta, in cui si arriva al 26% delle multe, praticamente uno su quattro la paga, ma ci sono casi anche più significativi? Ci sono casi anche peggiori. Noi nell'indagine di cui citavi i numeri, sì, abbiamo calcolato gli ultimi tre anni, 2005-2007, supponendo che insomma in tre anni uno la multa riesca a portarla a casa. Teniamo conto che il condono va anche molto molto più indietro, per cui bisogna vedere com'è andata, diciamo, tra fine anni 90 e inizio 2000. Teniamo conto che ci sono casi anche di grandi città come Reggio Calabria, che l'anno scorso, cioè nel 2007, quindi nel consuntivo chiuso lo scorso anno, ha recuperato, ha incassato meno di due multe ogni 100. Lì c'è stato un problema, hanno poi riattivato una società mista con il comune per far ripartire la risposta. Comunque ci sono casi di comuni, anche medi, anche grandi, soprattutto al sud, dove la riscossione per lunghi anni è stata inceppata e di conseguenza cresce, diciamo, l'appeal di una via più facile per portare comunque nelle casse del comune una parte dei soldi che si sono persi nei vizi della riscossione. Dove la riscossione tendenzialmente becca tutto o quasi tutto, l'esigenza per il comune di fare casa con un No, ecco, nell'articolo che noi ricordavamo, il tuo articolo di fine luglio su Sole 24 Ore, oltre al caso eclatante di Bari, in cui il 98% di multe non viene riscosso, perché non capisco chi le paghi, però si citava anche un altro aspetto: Messina 93%, Matera 83%. Come avverrà poi la notifica? Cioè, noi non possiamo stare qui a aspettare di capire se il comune limitrofo fa il condono, magari quello più vicino no, io posso vedere le multe prese in un comune di residenza, in un altro comune in cui lavoro. Che cosa avverrà, per concludere concretamente, verrà recapitata da chi e che cosa? Sì, allora, almeno nelle società, nelle tante società che si riusciranno a organizzare bene, arriverà una comunicazione invece dell'ulteriore accrescimento degli interessi e della mora. La comunicazione recherà una buona notizia, cioè elencando le cartelle, quindi le multe in arretrato, dirà al multato, al contribuente, che può risolvere la sua situazione indicando il nuovo importo, ovviamente molto inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare, diciamo, a prezzo pieno. Quindi l'elenco, diciamo, dei verbali arretrati stati con il relativo importo minimo da pagare e la piccola maggiorazione del 4%, quindi verrà come dire una sorta di cartella buona, diciamo sì. Così, che recherà una buona notizia con un conto molto meno salato rispetto a quelle che periodicamente arrivano con diciamo i solleciti di pagamento per le multe arretrate. Staremo a vedere, grazie a Gianni.